that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. Ciao a tutte. I nomi delle cose, la trasmissione della Coordinamento Femminista e Lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti. In apertura vi comunichiamo una cosa che dispiace anche a noi, però dobbiamo, è una necessità, cioè questa è l'ultima trasmissione di questo anno politico, cioè con maggio chiudiamo questa fase delle trasmissioni della Coordinamento e riprenderemo a metà settembre. Diciamo che chiudiamo un po' prima perché il mese di giugno ci serve. Non è un problema di andare in vacanza, è altro che non ho neanche per idea. Cioè ci serve per tutta una serie di motivi. Perché? Primo, abbiamo bisogno di confrontarci fra noi. La Coordinamento ha sempre cercato di far camminare insieme teorie e prassi, di trovarsi all'interno di tutte le lotte che cercano di far di coinvolgere genere e classe, e bisogna che ci confrontiamo su tantissime cose per ripartire. Questa è una cosa che noi facciamo spesso durante l'anno, e quest'anno non siamo riuscite a fare tanto. Dopodiché ci servono degli aggiornamenti tecnici importantissimi, che abbiamo fatto quest'anno un sacco di cose e non siamo riusciti a farne anche uno spottino, il che ci pesa, ci mancano delle basi. E terzo, perché vogliamo organizzare insieme a altre realtà le street, cioè la controestate romana, l'estate per la strada, l'estate delle periferie, chiamiamola come vogliamo chiamare, troveremo anche un nome per tutte queste cose, perché riteniamo importantissimo che appunto le lotte non finiscano con l'estate, anche durante l'estate, cioè non si capisce bene perché continua. Oltretutto la borghesia è bravissima, fa sempre le leggi ad agosto, ecco, quindi non si capisce perché noi ci dobbiamo fermare. Quindi è tutto fuorché un andare in vacanza, ma è un organizzare altre cose. E allora, come al solito, prima di cominciare questa puntata, vi diamo la scaletta degli argomenti che affronteremo. Nella prima parte, dedicata all'attualità, la dedichiamo appunto a Maria Baratto, quella operaia della Fiat in cassa integrazione da 6 anni, che a lungo si è battuta, insomma, contro appunto lo smantellamento di tutte le garanzie che i lavoratori stanno subendo, e che si è suicidata qualche giorno fa. Poi tra la prima e la seconda parte ci sarà sempre la parentesi di Elisabetta, che si intitola Le Patriarche. La seconda parte invece di approfondimento oggi sarà dedicata alle donne zapatiste, le donne nell'organizzazione zapatista e non solo, anche in realtà in altre regioni del Messico, e abbiamo il piacere di avere con noi una compagna del Nodo Solidale. In chiusura, come ogni ultimo mercoledì del mese, ci sarà la rubrica Quelli che non hanno il genere ma hanno la classe. Klicken, schreien, Stöße mitten des Wehs. Auf die Tür, die Grenze heißt. Doch am Eingang steht groß. Tritt herein, tu was du willst. Doch im Zimmer danach sitzt das Tier und hütet mich. Und am nächsten Tag wird der Raum entleert. Ich geh rüber und vernichte dich. Den Quindi, prima di cominciare, vorremmo ricordarvi questa iniziativa che stanno organizzando in diverse realtà, appunto, e che è stata lanciata dallo spazio sociale Ex 51. E stanno organizzando tante realtà di movimento, compresa la Coordinamenta, che è le street, cioè quest'estate in città. Il prossimo appuntamento è domani, giovedì 29 maggio, alle ore 18:30 al Lucernario, per la distribuzione del materiale per l'estate, manifesti, adesivi, eccetera. Poi si farà il blog, penso che sia già a buonissimo punto, se non attivo. Invece è già attiva la pagina Facebook, www.facebook.com/estateromanaperiferia. Non mi dite come ci si accede, perché io non sono molto esperta in Facebook. Comunque, giovedì 29 maggio alle ore 18:30, per tutte le realtà che si sono già incontrate, con cui ci siamo già incontrate, e per tutte quelle che vogliono venire e vogliono partecipare, perché vi ricordiamo che questo, diciamo, questa iniziativa è stata è nata proprio dalla riflessione critica sulla differenza tra tempo libero e tempo liberato. If he wants them out of the way, crazy he calls me. Sure, I'm crazy, crazy in love, I'd say. I say I'll go through fire and and I'll go through fire. As he wants it, so it will be. Crazy he calls me. Sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'm due right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever. If I have to hold up the sky. Eccoci qui, in apertura volevamo ricordare con affetto Maria Baratto, l'operaia della Fiat di Pomigliano che una settimana fa si è suicidata ed è stata trovata 4 giorni dopo nel suo appartamento. Maria Baratto viveva in un appartamento del rione Spiniello di Acerra. Era un'operaia della Fiat di Pomigliano, deportata con altre 316 lavoratrici e lavoratori nello stabilimento di Nola, discriminati dalla Fiat per ragioni puramente politiche e ideologiche. Era stata messa in cassa integrazione da circa 6 anni e la CIGL sarebbe scaduta il prossimo 13 luglio. Maria si è suicidata. Non si può continuare a vivere per anni sul ciglio del burrone dei licenziamenti, aveva scritto Maria in un articolo pubblicato 2 anni fa sulla pagina web del Comitato Mogli degli Operai di Pomigliano. Ieri si sono svolti i funerali di Maria Baratto e i suoi compagni, gli altri operai, hanno organizzato un flash mob che mimava le morti che ci sono state in Fiat. Questa notizia è stata ripresa e trasmessa da vari TG nazionali e regionali, e ripetendo l'insopportabile gioco del mimare, del replicare queste cose, ma solamente come fanno per i migranti. I migranti affogano e c'è il compianto generale, però nessuno e nessuna dice perché i migranti sono affogati e di chi è la colpa. Gli operai si suicidano nel compianto generale che rimbalza su tutti i TG, però nessuno e nessuno dice perché si sono suicidati e di chi è la colpa. Io volevamo leggere l'articolo che Maria ha scritto 2 anni fa sulla pagina web del Comitato Mogli degli Operai di Pomigliano. Suicidi in Fiat. Non si può continuare a vivere per anni sul ciglio del burrone dei licenziamenti. L'intero quadro politico istituzionale che, da sinistra a destra, ha coperto le insane politiche della Fiat è corresponsabile di questi morti insieme alle centrali confederali. Dopo aver lucrato negli anni scorsi finanziamenti pubblici multimiliardari, lo speculatore Marchionne chiude e ridimensiona le fabbriche italiane e delocalizza la produzione all'estero per fare profitti letteralmente sulla pelle dei lavoratori che sono costretti ormai da anni alla miseria di una cassa integrazione senza fine e da un futuro di disoccupazione. A Pomigliano l'unica certezza dei 5.000 lavoratori consiste nella lettera di altri 2 anni di cassa integrazione speciale e cessazione dell'attività di Fiat Group Automobiles, nella consapevolezza che buona parte di loro non saranno assunti da Fabbrica Italia. Il tentato suicidio di oggi di Carmine P., cui auguriamo di tutto cuore di farcela, il suicidio di Agostino Bova dei giorni scorsi, che dopo aver avuto la lettera di licenziamento dalla Fiat per futili motivi è impazzito dalla disperazione, ammazzando la moglie e tentando di ammazzare la figlia prima di togliersi la vita, sono solo la punta iceberg della barbarie industriale e sociale in cui la Fiat sta precipitando i lavoratori. Anche per questo la lotta dei lavoratori Fiat contro il piano Marchionne ed a tutela dei diritti dell'occupazione rappresenta un forte presidio di tenuta democratica per l'intera società. A Maria va il nostro saluto più affettuoso, più caro, e tutto il nostro odio a quelli che sono la causa della sua morte. Taken from letters from Vanzetti. Father, yes, I am a prisoner. Fear not to relay my crime. The crime is loving the forsaken. Only silence is shame. And now I tell you what's against us. E per salutarla leggiamo anche l'incipit del Comitato Mogli Operai di Pomigliano. Siamo le mogli degli operai, quelle che senza tuta blu hanno il cuore blu, la testa blu, gli occhi blu, hanno cioè dentro di loro il significato del passato, le difficoltà del presente e la voglia di un futuro migliore per i loro figli. Maria aveva anche la tuta blu. Against us is the law with its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Against us is the power of the gold. Against us is the racial hatred and the simple fact that we're poor. My father dear, I am a prisoner. Don't be ashamed to tell my crime, the crime. I have my love, my innocence, the workers and the poor. For all of this I'm safe and strong and hope is mine. Volevamo darvi notizia di una bella iniziativa che ci sarà il 31 maggio e poi continuerà il 14 e il 15 giugno in valle, organizzata dalle Alva della Clarea, che si chiama Voci di Donne sulla Violenza di Stato. Un gruppo di donne della Val di Susa, che si sono chiamate le Alva della Clarea, ovvero il lievito della Clarea, hanno deciso di organizzare l'evento al fine di incontrare e confrontarsi con madri, sorelle e compagne di vittime della violenza di Stato e anche quella di stampo politico, mettendo a confronto le loro dolorose esperienze con quelle difficili della Valle di Susa. Queste donne valsusine, di diversa provenienza, sia culturale che anagrafica, hanno lavorato insieme per fare in modo che anche la Valle di Susa possa confrontarsi con altre realtà e altri territori su un problema che sta diventando sempre più dilagante e assolutamente inaccettabile. E per il programma vi invitiamo ad andare sul sito notav.info. Tutti questi materiali comunque li potete trovare anche sul nostro blog, anche tutti i materiali riguardanti Maria su coordinamenta.noblogs.org. A proposito dell'iniziativa delle donne Notav e a proposito della violenza di Stato, ricordiamo che il 22 maggio c'è stata la prima udienza del processo per Chiara, Mattia, Nico e Claudio, che è stata rimandata al 6 giugno, e che le altre date fissate che riguardano i mesi di maggio, giugno e luglio sono il 30 maggio, il 6 giugno, il 19 e il 26 sempre di giugno, il 3 e il 16 luglio. Allora, una piccola considerazione al volo, che avremmo voglia di riprendere, e forse scriveremo qualcosa sul blog, dato che questa è l'ultima trasmissione, riguarda le elezioni, cioè la situazione in cui ci veniamo a trovare con un 40% dell'elettorato che ha votato PD. Allora, il PD è il partito che ha naturalizzato il neoliberismo nella nostra società, PD, annessi, connessi, collaterali e affini. È il principale autore dell'introduzione del neoliberismo all'interno del nostro paese, e questo voto comporterà sicuramente un aggravamento della repressione e peserà tantissimo sui processi che sono in corso, e quindi teniamone conto e alziamo anche noi nostra solidarietà, aumentiamo la nostra solidarietà e stiamo vicini ai compagni e alla compagna. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Questa parentesi si intitola Le patriarche ed è un pezzo di un articolo più lungo che potrete trovare sul nostro blog. Allora, non ci si adatta mai a questa società con il suo ordine stabilito, fatto di oppressione, di gerarchia, di ingiustizia, di razzismo, di privilegi. Tanto intollerabile quanto si constata che è talmente radicato nella nostra cultura che può apparire spesso accettabile e persino naturale. Si constata veramente. La società patriarcale, nelle modalità in cui viene subita, è l'esempio più evidente di questa paradossale sottomissione. Un rapporto sociale particolarmente odioso che ci tocca tutte da vicino, che permea la società, ne è diventato un tratto distintivo, conosciuto e riconosciuto dal maschio come dalla donna. Sinora il perpetuarsi di questo rapporto di dominio risiedeva non esclusivamente, ma per certi versi principalmente, in seno alla famiglia, che giustamente ha catalizzato l'attenzione del femminismo, così come del resto in altre istanze quale la scuola, le istituzioni. Oggi, nella stagione neoliberista, la nuova frontiera del perpetuarsi della società patriarcale passa attraverso la cooptazione di donne che, in cambio della loro promozione personale, vendono le altre donne e svendono la lotta femminista. Per fare questo, spacciano proprio questa loro promozione personale per emancipazione. Non è emancipazione quando si fa il lavoro sporco di licenziare altre donne. Quando si reprimono e si condannano, forti di una divisa e di una carica istituzionale. Quando si giustificano le guerre umanitarie. Non è emancipazione quando si partecipa alla medicalizzazione dell'esistenza delle altre donne, né quando si partecipa da posti di responsabilità negli ospedali, mimetizzate con un camice bianco, alla guerra alla 194. Non sono donne emancipate, sono patriarche, la versione femminile di quegli odiosi maschi che sono stati e sono il puntello, i protagonisti e i fruitori della società patriarcale e che nel momento che hanno visto la terra tremare sotto i piedi hanno chiamato le loro alter ego al femminile. I motivi della lotta femminista sono ancora validi ed ancora più urgenti ed oggi abbiamo la consapevolezza che non dobbiamo fare i conti solo con i maschi, ma anche con le patriarche. Occorre chiedere ad un'analisi materialista conto dell'economia, del valore d'uso, dei beni simbolici, per liberare tutte le forze della rivoluzione femminista, per uscire dalla società androcentrica che vive nei maschi, nelle donne e nelle diversità che si fanno complici. La memoria delle socialdemocratiche non ricorda, assolve. La memoria di poche, quelle diventate potere, vorrebbe diventare memoria di tutte. E in questo modo disconosce e lascia nel buio le eterne invisibili. E tutto si risolve per le socialdemocratiche nel recitare la sciocca litania della propria bravura che diventa la propria sacralizzazione. I media, le accademiche non aiutano a capire la realtà e a ricostruire la memoria. Incapaci volutamente di riconoscere le proprie origini, proiettano il tempo presente nel futuro come la propria ripetizione. Per loro domani è un altro oggi. L'organizzazione patriarcale del mondo, cambiato l'abito di scena come in teatro, rappresenta lo stesso dramma. E sempre secondo loro l'ingiustizia o è una fatalità o è stata rimossa e pertanto non si può uscire da questo falso dilemma. La violenza patriarcale richiede cattiva memoria, amnesia, oblio. La nostra memoria è nell'aria che respiriamo, a differenza delle patriarche che mettono nella memoria quello che vogliono trovarci, proprio come fa la polizia durante le perquisizioni. Non esiste lotta femminista muta, è inutile ingannarla e manipolarla. La memoria femminista rifiuta di lasciarsi imbavagliare. La lotta batte ancora, viva, nelle vene del tempo presente. Ciao. The lights are on, but you're not home. You're mine. It's not your home. Your body's... Thank you. you just don't know why. But you know, honey, quindi siamo giunti alla seconda parte della trasmissione in cui, come dicevamo prima, abbiamo il piacere di avere con noi una compagna del Nodo Solidale che è qui per fare una chiacchierata rispetto a un aspetto particolare, diciamo, del movimento zapatista, dell'organizzazione zapatista, che è quello del ruolo che le donne ricoprono e quindi anche in qualche maniera delle loro rivendicazioni, diciamo, più precipue, più potremmo dire femministe, anche se questo termine forse non si confà. Chiaramente il Chiapas adesso è stato purtroppo oggetto appunto di alcuni sconvolgimenti, nel senso, e mi riferisco chiaramente all'agguato del 2 maggio. Alla comunità della Realidad, in cui è stato infamemente ucciso il compagno galeano. E infatti, in chiusura di questa chiacchierata, avevamo piacere di leggere alcuni passaggi di una lettera scritta da una compagna che vive in Messico da qualche tempo, insomma da parecchi anni, che è appunto, diciamo, il nostro omaggio al compagno galeano. Invece, appunto, allora, per introdurre un po' queste riflessioni circa il ruolo delle donne nello zapatismo, volevamo fare, diciamo, una premessa in qualche modo di metodo, che è bene sempre fare quando ci si confronta con delle realtà, delle culture e delle situazioni appunto molto distanti da quello che sono poi la nostra situazione occidentale, nel senso che anche quando si parla di donne, di femminismo, bisogna stare attenti a usare un metodo comparativo, insomma, così sic et simpliciter, nel senso che è impossibile cercare di analizzare attraverso le nostre categorie occidentali quello che avviene in realtà così diverse dalle nostre, quindi non applichiamo le nostre categorie appunto alla realtà zapatista e viceversa. Però d'altra parte è anche vero che si possono scorgere dei fili rossi, che sono quelli appunto che derivano dal fatto che poi il sistema patriarcale, quindi le oppressioni che ne derivano, diciamo che non hanno confini né geografici né culturali né razziali né di classe. E quindi intanto ti saluto e grazie mille per essere qui con noi. Grazie a voi e buonasera a tutte e a tutti. E certo, è una realtà, quella di cui parliamo, che è molto complessa, e forse per capirla meglio a fondo bisogna partire sempre dalla consapevolezza che comunque sia la regione zapatista non ha una continuità territoriale, e quindi all'interno di questa discontinuità che poi si crea tra le comunità, i caracol, che invece sono i centri politici, le sedi politiche delle ZLN. All'interno di questa discontinuità, dicevo, troviamo delle comunità indigene, che possono essere composte da famiglie al 100% zapatiste. Invece in altri casi ci ritroviamo di fronte a situazioni dove abbiamo magari 2-3 famiglie zapatiste circondate invece da altre famiglie che sono appartenenti a partiti politici oppure paramilitari. E la cosa che si crea molto spesso è che comunque ci sono poi anche delle relazioni familiari con queste persone, no? Quindi c'è un distaccamento politico molto forte, però invece c'è una relazione di conoscenze dirette. E chiaro, ma infatti diciamo, da quello che ho capito, una comunità, cioè per definirsi comunità zapatista, bisogna avere, diciamo, alcuni requisiti proprio in virtù di questa discontinuità territoriale che c'è. Quindi diciamo che sorge una comunità zapatista nel momento in cui ci sono sì dei requisiti fondamentali, che sono per esempio la presenza all'interno delle comunità di una clinica de salud, che diciamo è un servizio che viene offerto per tutta la comunità intera, no? E sia per gli zapatisti che per chi non fa parte dell'organizzazione, a chi non fa parte dell'organizzazione, logicamente per i servizi medici che vengono prestati in qualche modo viene richiesto un piccolo contributo, invece logicamente è del tutto gratuita per gli zapatisti. E poi bisogna avere una scuola autonoma, e queste scuole autonome invece sono solamente per i figli e le figlie degli zapatisti, e quindi non sono accessibili agli altri. Ok. Dicevamo, sta emergendo un po' di più questo quadro in cui appunto ci sono le comunità che abbiamo detto che devono avere, diciamo, questi requisiti, che chiaramente quindi esistono anche delle comunità in cui le famiglie zapatiste sono numericamente, diciamo, esigue, e che ciò nonostante riescono a appunto mettere su una clinica di salute, la scuola, e appunto poi si creano questi intrecci molto complessi che ci sono tra relazioni politiche. Cioè, io immagino dentro alla stessa famiglia a un certo punto qualche componente entra a far parte dell'organizzazione e si ritrova il cugino, il fratello, la sorella, la madre, così, che invece continua a collocarsi su un piano politico diametralmente opposto, e deve essere di una complessità non indifferente quella di riuscire a salvaguardare queste relazioni, o comunque a modificarle o a tagliarle se ce ne dovesse essere diciamo l'occasione. Comunque, da una parte appunto ci sono, c'è l'organizzazione per comunità, e dall'altra parte ci sono i caracolle, che come dicevi sono le unità diciamo politico-amministrative. Sì, i centri politici amministrativi, però si parte sempre comunque sia da un livello comunitario, no? Infatti questa differenza che dicevi tu tra le comunità zapatiste, dove ci sono appunto delle percentuali basse di zapatisti, loro allora interno hanno delle assemblee che sono solamente degli zapatisti, e questo nell'organizzazione politica delle ZLN vale a dire che corrisponde diciamo all'assemblea comunitaria. All'interno di queste assemblee comunitarie vengono elette da tutta la comunità zapatista e alcune persone che poi svolgeranno incarichi negli altri livelli dell'organizzazione, come ad esempio il municipio e le giunte del buon governo. E tutto questo però viene eletto in primis nelle comunità. E sono incarichi che hanno anche una certa frequenza di rotazione, no? Sì, per cui... come per esempio, certo, sia i municipi ma anche all'interno delle giunte del buon governo c'è una rotazione triennale, ovvero viene eletto una giunta che è composta comunque da molte persone, e all'interno di questi 3 anni comunque c'è anche una rotazione interna, e quindi c'è sempre un cambio continuo, ci sono anche dei controlli effettuati da persone che invece hanno questo incarico specifico di controllare, no? L'operato che poi svolgono fondamentalmente queste giunte del buon governo, e quindi diciamo che questo però non lascia molto spazio alla corruzione, no? Anche perché è sempre una cosa continua, un cambiamento, non si ritrova mai la stessa persona come controparte. Quindi se io faccio un accordo diciamo con uno in quel momento detiene una carica governativa, poi torno dopo 2 mesi è cambiato, e quindi l'accordo che io ho fatto salta perché non è più la stessa persona. In questo, sì, anche in questo senso forse c'è poco spazio. Comunque, proprio appunto da qui possiamo passare forse a una tematica anche molto centrale per quello che è appunto la teoria femminista, che è proprio la divisione in ruoli. Quindi ci sono, sì, cioè da una parte quello che vorremmo discutere con te è l'assunzione, cioè quanto la facilità o le problematiche che sono connesse all'assunzione di cariche di governo da parte delle donne, e anche in più in generale se esiste, come è articolata la divisione sessuata in qualche maniera, cioè tra donne, uomini, tra femmine e maschi, di ruoli, di incarichi all'interno anche invece del tessuto comunitario. Allora, nel tessuto comunitario magari ci arriviamo, sì, piano piano, però comunque dal punto di vista invece dell'autogoverno, cioè, i ruoli sono paritari, sia gli uomini che le donne svolgono le stesse cose. L'unica cosa è che logicamente quello che emerge un poco anche dai testi delle Squelida, quelli soprattutto che riguardano la partecipazione delle donne all'interno del governo autonomo, è che le donne hanno ancora una certa difficoltà, anche un certo timore, no? Da portare, che le portano a ricoprire poi degli alti incarichi politici nell'organizzazione zapatista. E questo dipende in parte dalla loro poca dimestichezza nel parlare lo spagnolo, nel leggere e nello scrivere, ma soprattutto a causa del ruolo di secondo piano che gli è sempre stato destinato da parte di una secolare cultura machista, che è tuttora vigente comunque in Chiapas e in tutto il Messico. E nonostante però queste enormi difficoltà culturali, c'è da dire che negli ultimi 30 anni vi è stato un enorme lavoro che hanno fatto le donne zapatiste per cercare di superare proprio questo stato di cose, tant'è vero che oggi all'interno della società zapatista vi sono le donne che ricoprono i più alti incarichi, sia politici che militari. E però uno comunque sia un altro grande ostacolo che poi loro però trovano, no, come donne, è la maternità, che a volte è usata come se fosse un pretesto per mascherare il loro già citato senso di inadeguatezza e che provano comunque quando vengono scelte dalla comunità stessa per ricoprire un incarico. E la cosa però per me molto interessante è che comunque in queste situazioni solitamente le donne che già ricoprono invece dei ruoli all'interno, dei ruoli politici, soprattutto nelle giunte del buon governo, fanno tutto un lavoro per spronare il più possibile le loro compagne, offrendosi proprio come aiuto, supporto per superare le varie difficoltà. Perché questo ostacolo della maternità è collegato appunto a questa discontinuità territoriale, nel senso che per assumere gli incarichi di autogoverno, insomma di governo più alti, bisogna recarsi nel Caracol, che molto spesso non coincide con la tua comunità, no, di appartenenza. Quindi se hai dei bambini piccoli devi lasciarli a qualcuno, o i più piccoli te li porti, però comunque. E allora questo diciamo la separazione dai propri figli se capisco bene quello che stiamo dicendo, che stavi dicendo, è che viene usata come un pretesto: non posso lasciare i miei figli ad assumere questo incarico perché appunto non so a chi lasciarli. E allora qua scatta questa in qualche modo solidarietà o questo stimolo delle altre compagne che hanno già affrontato questa cosa. Sì, certamente, no? Perché sì, proprio come stavi dicendo giustamente, ogni volta che loro decidono di prendere poi in mano invece questo incarico, si ritrovano ad affrontare questa problematica, quella del lasciare i figli a casa, anche se in realtà anche la gestione che poi invece c'è di questi figli che rimangono a casa è molto interessante, perché comunque c'è sempre una gestione comunitaria, no? Dei figli, che non sono più i figli a carico delle donne, e questo sicuramente anche grazie, no, a tutta l'idea educativa che hanno gli zapatisti, in cui si insegna anche ai propri figli, alle proprie figlie, a crescere in questo modo, cioè quindi all'aiutarsi e al permettere soprattutto alle donne di svolgere il più possibile degli alti incarichi. E un'altra cosa che comunque ha dato un fortissimo stimolo alle donne sotto questo punto di vista è stata sicuramente la comandante Ramona, che è colei che ha scritto La Ley Revolucionaria de la Mujer, che è stata scritta prima del 94, e che lei è sempre stata presa comunque come un grandissimo punto di riferimento da parte di tutte le donne, perché essendo un'indigena che non sapeva né scrivere né leggere, comunque sì, è riuscita a tirare fuori questa legge che per loro è importantissima, e per loro appunto rappresenta uno stimolo, perché dicono: l'ha fatto lei, lo possiamo fare pure noi, e ci muoviamo in questa direzione. È uno dei punti, diciamo, salienti di questa Ley Revolucionaria de las Mujeres. Allora, ce ne sono vari, perché comunque sia si parla di tantissimi punti. Poi a me la cosa che mi ha colpito tantissimo, per esempio, è che sul libro delle Escuelita ci sono talmente tanti punti che alcune donne dicono: ok, alcuni di questi punti ancora non li abbiamo raggiunti, però noi comunque sia la vogliamo ampliare. Quindi c'è tutto un ampliamento di questa legge. Sicuramente uno dei più interessanti è quello che parla del salario, perché dicono: tutte le donne secondo noi debbono ricevere un salario giusto, un salario equo, no? E poi di solito però rispondono sempre: no, come abbiamo portato avanti questa parte della legge, siamo riuscite ad ottenerla? Loro rispondono: no, non ci siamo riuscite, perché all'interno della nostra organizzazione non è pensato il salario, non c'è salario, quindi no, questo punto non l'abbiamo ottenuto. E poi un'altra cosa che invece loro hanno voluto fortemente, che si parla sempre, no? Gli zapatisti che non fanno assunzione di alcol e di droghe. Questa è una forte rivendicazione da parte di tutti, e soprattutto però delle donne, che erano le prime vittime, no? di questi abusi. Diciamo, perché l'abuso negli alcolici e nelle droghe poi portava, cioè è stato riconosciuto come una concausa della violenza poi che veniva messa in atto dagli uomini, cioè una violenza machista, maschilista, insomma. E va bene, prima di passare agli altri punti facciamo una breve pausa una breve pausa musicale anche per voi che ascoltate. Allora, un altro punto che ci interessava affrontare con te riguarda in parte sì la maternità, ma un discorso un po' più ampio rispetto a quello che qui chiamiamo medicalizzazione del corpo delle donne, perché appunto sappiamo che lo Stato messicano mette in atto attraverso insomma tutte le sue dinamiche repressive un controllo sempre più serrato rispetto al corpo delle donne, e mi riferisco alle iniziative rispetto all'obbligo in alcuni stati di andare a partorire negli ospedali, che spesso comporta appunto uno spostamento anche gravoso per le donne, che tra l'altro hanno anche una sapienza tradizionale insomma ben radicata e anche vissuta, che permetterebbe di partorire in casa, e sono costrette invece ad affrontare dei lunghi viaggi per andare a partorire negli ospedali. Chiaramente forse una delle ragioni di questa imposizione è proprio riferibile a un controllo che si vuole vuole mettere in campo da parte dello Stato messicano e sulle nascite, ma proprio in generale, no, sul corpo, appunto quello che rientra sotto la nostra categoria di medicalizzazione. Però rispetto a questo punto in particolare ci riserviamo, diciamo, di fare un approfondimento anche il prossimo anno, perché è molto complesso e molto ricco di analogie e anche differenze, e appunto preannunciamo già da ora che ci sarà un altro approfondimento di una puntata del prossimo anno. E però due cose sul sistema sanitario, diciamo, nell'organizzazione zapatista e comunque sul modo di approcciarsi alla cultura medica, ci interessava farle emergere, perché appunto c'è una prospettiva, diciamo, di autoguarigione. Non so se ce ne puoi parlare un po'. Sì, diciamo che in generale gli zapatisti si occupano, diciamo, di una sanità autonoma, no? Come dicevo prima, in tutte le comunità c'è una clinica autonoma, nei caracol, in alcuni caracol ci sono le cliniche autonome, e queste cliniche autonome offrono comunque sia un servizio importantissimo per tutti e tutte, no? Anche, come dicevo, i non zapatisti, perché comunque sia, in quanto indigeni, anche i non zapatisti sono comunque sia indigeni e hanno dei problemi a rivolgersi ad una struttura pubblica messicana, e quindi preferiscono anche loro poi andare dagli zapatisti, che affrontano il sistema medico in maniera quanto più naturale possibile. E in questo senso anche le donne hanno una grandissima partecipazione, per esempio loro, proprio come donne, si sono organizzate attraverso delle aree di lavoro specifiche, che sono per esempio le nutrici, in sì, italiano che... sempre un po' difficili le traduzioni dallo spagnolo, perché in spagnolo com'è invece in la parola? In spagnolo sarebbe las parteras, coloro che fanno partorire in qualche maniera. Sì, e la yerberas, che invece appunto potremmo tradurlo più o meno come delle erboriste, ovvero delle donne che comunque conoscono le piante, ne sanno i loro usi, le loro proprietà, i loro principi e tutto il resto. Le sanno utilizzare. Le sanno utilizzare molto bene. E le osteras, che invece è molto difficile da tradurre, perché mi verrebbe da dire le osteopate, però poco a che vedere, insomma, con le osteopate. Diciamo che si occupano fondamentalmente comunque sia del mettere a posto le ossa, quindi rotture, fratture, quanto più possono, no? E attraverso queste aree di lavoro loro si rendono così cura in maniera autonoma sia dei loro corpi, ma mettendo anche a disposizione una loro sapienza attraverso anche la formazione di promotrici e promotori di salute. Beh, chiaramente questo, diciamo, per trovare il corrispettivo di queste esperienze invece nel nostro continente, nella nostra Europa, dovremmo risalire veramente tanto indietro nel tempo. Cioè, mi viene in mente a questo proposito la caccia alle streghe, no? Quello che era invece la struttura sociale e il ruolo che le donne ricoprivano all'interno di queste insomma comunità durante il Medioevo, e che era proprio questo, no? Cioè, ricoprivano i ruoli, appunto, in particolare delle nutrici e delle erboriste, erano coloro che sapevano utilizzare la natura per guarire, e che appunto sapevano anche far nascere, eccetera eccetera. Questo ruolo e questa sapienza detenuta dalle donne è stata estirpata completamente poi all'inizio diciamo dell'era industriale, no? E quindi della riformulazione e della ristrutturazione dei rapporti sociali, proprio per rimettere le donne al loro posto, ed è lì, no, che si radica in qualche modo questa divisione che è stata operata anche tra donne e uomini, no? Cioè, mentre prima, insomma, era una comunità organica, e appunto le donne ricoprivano anche ruoli di primo piano, anche nell'organizzazione politica, insomma nelle rivendicazioni. Poi è stato detto che questa sapienza in realtà celava un potere magico a danno degli uomini, e lì si è, diciamo, fatta questa divisione, possiamo dire, tra oppressi, no? Cioè, per stimolare una lotta tra oppressi, appunto, e che ha decretato l'allontanamento e addirittura, insomma, l'uccisione e la persecuzione delle donne che ricoprivano questi incarichi. Sarebbe bello, insomma, che anche noi ci riappropriassimo di questo sapere, no? E ci riprendessimo, insomma, tutto il percorso femminista sull'autodeterminazione del proprio corpo, che passa anche per riprendere in mano la gestione del proprio corpo, anche del sapere medico, e che è proprio la rivendicazione anche che è stata fondata un movimento politico, insomma un'organizzazione politicamente organizzata delle lavoratrici del sesso di Città del Messico, che però appunto sono in qualche maniera federate, cioè hanno un legame molto intenso con l'organizzazione zapatista, a partire dalla controcampagna, dalla campagna. Diciamo, in realtà il collegamento che si crea tra gli zapatisti e la Brigata Callechera è anche più vecchio della Otra Campagna, perché nasce in realtà già dal 2004, quando la Brigata Callechera, come stavi dicendo tu, è un collettivo messicano che da quasi più di 20 anni ha tessuto una vasta rete di attività sociali con le lavoratrici sessuali e i travestiti di tutto il Messico, e si sono, diciamo, messi insieme a studenti e studentesse che facevano da promotori e promotrici di salute all'interno delle comunità zapatiste, e da lì, attraverso vari discorsi che uscirono da questi incontri, scrissero un libro che ha un nome lunghissimo, io nemmeno mi ricordo, che viene pubblicato con una serie di immagini e varie informazioni molto semplici anche sull'autoguarigione, sull'autocura all'interno di tutte le comunità zapatiste. Poi finisce questo, diciamo, in un certo senso questa fase, e si rincontreranno le strade direttamente tra ZLN e la Brigata con la nascita dell'Otra Campagna. Quindi stiamo parlando del 2006, quando gli zapatisti lanciano questo movimento internazionalista che si rivolge alla società civile tutta per cambiare il mondo, con delle parole chiavi molto semplici, che sono in basso, a sinistra, al di fuori dei partiti politici e in chiave anticapitalista, logicamente. La Brigata Callechera sta in pieno in tutto questo, perché sta fuori i giochi elettorali, si auto-organizza mettendo su queste cliniche, che sono uno dei progetti più avanzati che hanno, cioè riescono, insomma, a creare una clinica autonoma, del tutto indipendente, autofinanziata, sì, e soprattutto all'interno di una megalopoli quale Città del Messico. Quindi mettono su queste cliniche che sono completamente autofinanziate attraverso la vendita di preservativi che sono il triangolo e l'incanto, e che questi preservativi, tra l'altro, sono stati scelti dalle stesse lavoratrici e stessi lavoratori sessuali, da tutti e tutte, in base proprio alle loro esigenze. E tutta questa rete molto interessante che si è creata proprio sulle lavoratrici sessuali e i travestiti ha implicato anche il superamento del ruolo di vittime delle stesse per convertirsi invece in dei soggetti che cercano di essere riconosciuti come lavoratrici dai loro pari, e non come persone che sono cadute nel lavoro più vecchio del mondo perché sono ingenue o ignoranti. E E va bene, questa appunto è un'altra esperienza, tra l'altro appunto testimonia, no, di uno dei punti programmatici più forti anche delle ZLN, nel senso che la loro proposta è quella di entrare in contatto e costruire legami con qualsiasi realtà che riesce ad auto-organizzarsi con queste parole chiave, in basso, a sinistra, fuori dai giochi elettorali e in chiave anticapitalista, ma senza, diciamo, imporre una ricetta preconfezionata. Quello che funziona in Chiapas può non funzionare anche in un'altra regione del Messico, come chiaramente può non funzionare in un altro paese del mondo, no? E quindi questa è la forza pure dei legami che si intessono, perché davvero si porta poi ognuno le proprie rivendicazioni e la propria soluzione, però insieme, insomma, andando nella stessa direzione. E va bene, allora noi ti ringraziamo ancora per essere stata con noi, è stato tutto molto interessante e appunto penso che ti rapiremo ancora per una prossima intervista. E come dicevamo in chiusura di questa chiacchierata rispetto alle ZLN, adesso leggiamo dei passi di questa lettera di una compagna. Sì, prima di tutto vi ringrazio anche io a voi per l'invito. Compass, vi scrivo in un momento pieno di rabbia e dolore collettivi, in uno di quei momenti in cui ti ricordi di vivere in un paese in guerra, una guerra lunga che si perde di vista quando si è iniziata, una guerra permanente contro la popolazione, contro i popoli, che se guardiamo bene è in corso in tutto il mondo, ma qui è più sfrontata. Il 2 di maggio hanno ucciso Galeano, sono stati paramilitari, ovvero il governo messicano. Il 5 maggio la giunta del buon governo, l'autorità civile, ha denunciato l'aggressione paramilitare in cui hanno ucciso barbaramente il compa Galeano e ha passato il problema alle ZLN, ovvero alla struttura politico-militare. Le ZLN è tornato dopo più di 10 anni nel territorio delle comunità. Qui si può leggere la sensazione di dolore e di rabbia che stanno vivendo in questo momento i Compass, grazie al testimonio del subcomandante Marcos. Il sub Marcos spiega perché è risultato necessario cancellare una serie di eventi politici importantissimi che si erano programmati per inizio giugno, tra cui un incontro a porte chiuse con rappresentanti dei popoli indigeni del Messico e un incontro aperto a tutti gli aderenti dove si sarebbe lanciata una nuova iniziativa politica nazionale ed internazionale. L'ultima era stata l'Otra Campagna nel 2006. La ragione è che il cuore dello zapatismo è in pericolo ed è necessario difenderlo. Di solito noi abbiamo bisogno degli zapatisti e regolarmente accendono una luce di speranza che ci schiarisce le idee e illumina il cammino a seguire. Questa volta gli zapatisti hanno bisogno di noi. Se rispondono militarmente è il miglior modo, è il miglior pretesto perché il governo mandi l'esercito a distruggere il Caracol. Se rispondono, come normalmente lo fanno, attraverso la giustizia comunitaria che hanno costruito in maniera civile e pacifica in questi 20 anni, corrono il rischio che i paramilitari occupino militarmente la zona dell'impunità più totale. È necessario rompere il silenzio che i mezzi di comunicazione a servizio della dittatura di fatto messicana hanno costruito sugli zapatisti. È necessario uscire per strada a fermare la guerra come nel 94. Galeano è tutti noi, è la nostra libertà che costruiamo insieme. E appunto per finire e per concludere dopo queste parole intense, vi annunciamo insomma che l'8 giugno ci sarà un'iniziativa organizzata dal Nodo Solidale e dalle Cagne Sciolte, che si svolgerà proprio appunto nella sede delle Cagne Sciolte a via Ostiense 137, dal titolo proprio Le donne nell'autonomia zapatista. Alle ore 16 ci sarà un laboratorio per bambini con disegni e fiabe resistenti e dalle ore 18 invece una narrazione collettiva, La libertà secondo le zapatiste. Lo slogan, diciamo, che hanno scelto è molto bello: Nunca más un México sin nosotras. Quindi invitiamo tutte e tutte a partecipare a questa iniziativa per continuare a discutere di quello che abbiamo affrontato anche oggi. Grazie ancora a te e alla prossima. Grazie a voi. Allora, come tutti gli ultimi mercoledì del mese, c'è la rubrica Quello che non hanno il genere ma hanno la classe di Dennis, che ci ha mandato il suo contributo e che si intitola Un elenco semiserio di ragioni per cui potresti essere bisessuale. Se hai dovuto fare coming out più di una volta con la stessa persona, potresti essere bisessuale. Se il tuo orientamento sessuale è quanto basta agli altri per poter dare per scontata la tua promiscuità, potresti essere bisessuale. Se la tua reazione alla quantità assolutamente scarsa di attenzione che riceve la comunità trans dalle organizzazioni LGBT mainstream è disgusto, seguito da gelosia perché tu non hai nemmeno quella, potresti essere bisessuale. Se invece la tua reazione è disgusto e rabbia perché si prende in considerazione soltanto metà della tua identità, potresti essere bisessuale e trans. Se media, attivisti e via dicendo pensano che la migliore maniera di categorizzare l'arcobaleno sia di nominare tutte le parti di esso meno la tua, potresti essere bisessuale. Se la locuzione gay, lesbiche, trans alle tue orecchie arriva come gay di sicuro, lesbiche forse, trans solo formalmente e io non esisto, potresti essere bisessuale. Se ogni volta che presenti un o una nuova partner agli amici devi ripetere che la tua sessualità è sempre quella di prima, potresti essere bisessuale. Se chiunque pensa di poter definire la tua sessualità meglio di te, potresti essere bisessuale. Se sei sottoposto o sottoposta all'accusa di essere velato o velata, nonostante tu faccia una quantità spropositata di coming out al giorno, o addirittura nonostante tu sia attivista, potresti essere bisessuale. Se il tuo superpotere è l'invisibilità ed è così potente da estendersi ad ogni eventuale rappresentazione artistica e mediatica della tua comunità, potresti essere bisessuale. Se hai perso più amici gay e lesbiche che etero quando ti sei dichiarato, potresti essere bisessuale. Se tu non sei gay o lesbica, ma la tua partner sì, potresti essere bisessuale. Se qualcuno pensa che il tuo orientamento sessuale vada di moda, la discriminazione è trendy, potresti essere bisessuale. Se fai volontariato per la tua comunità e gli altri ti ringraziano per essere un alleato o un'alleata invece che parte integrante della comunità, potresti essere bisessuale. Se ti cascano le braccia ogni volta che un attivista gay si lamenta della lunghezza della sigla LGBTQIA, perché tanto la sua appartenenza ad essa non è mai stata messa in dubbio, potresti essere bisessuale. Se la tua identità è stata considerata una fase da qualcuno che quando hai fatto coming out era ancora uno zigote, potresti essere bisessuale. Se sei una figura storica, letteraria, politica, sociale, estremamente famosa e ultra dichiarata e tuttavia gli altri continuano lo stesso a usare la definizione sbagliata, potresti essere bisessuale. Se sei la persona più monogama del globo terracqueo, eppure chiunque ti vede come una potenziale cornificatrice, potresti essere bisessuale. Se sei poliamoroso o poliamorosa e non hai voglia di definire il tuo orientamento sessuale per non correre il rischio di confermare uno stereotipo, potresti essere bisessuale. Se ti identifichi come gay o lesbica per non dover dare spiegazioni in giro, potresti essere bisessuale. Se sei perverso o perversa e polimorfo o polimorfa, potresti essere bisessuale. Se non ti senti a tuo agio né nella comunità gay né in quella etero, potresti essere bisessuale. Se gli altri ti vedono come metà qualcosa e metà qualcos'altro, ma tu ti senti tutto, tutta intera, potresti decisamente essere bisessuale. In chiusura vorrei dare un appuntamento che c'è sabato 31 maggio e si chiama 8 settembre 1974 racconti di una comunità in rivolta ed fa parte del progetto San Basilio Storie de Roma. Allora, perché una trasmissione femminista dà un appuntamento di questo tipo? Perché? Perché di sì, nel senso che la storia delle lotte della periferia romana, la storia dell'autodeterminazione che è passata attraverso questi quartieri negli anni 70, fa parte della storia del femminismo. Il femminismo, almeno qui a Roma, è passato di lì, l'autodeterminazione delle compagne è cresciuta lì. Quindi per informazioni e per raccolta materiale potete andare su progettosanbasilio@inventati.org o www.progettosanbasilio.org e l'iniziativa sarà Piazzale Recanati, San Basilio, insomma qui a Roma lo conoscete tutti. E dato che siamo in super chiusura dell'ultima trasmissione, quindi vogliamo ricordarvi prima di tutto il nostro blog coordinamento.noblogs.org, su cui potete trovare i riferimenti per la controestate di cui vi abbiamo parlato in apertura, i riferimenti del blog della controestate che stiamo facendo. Vi ricordiamo che domani alle 18:30 al Lucernaio c'è la riunione proprio per la controestate. Poi vorremmo dirvi che il mercoledì continueremo a mandare le trasmissioni di quest'anno che sono state più interessanti, anche per innescare discussione e confronto potete scriverci le osservazioni sul blog o alla nostra casella di posta coordinamento@autistiche.org. Dopodiché in chiusura ringraziamo Radio Onda Rossa per lo spazio che ci ha dato e che ci dà, perché l'informazione di classe e di genere è fondamentale nelle lotte. E salutiamo con affetto e con forza tutte e tutti quelli che sono privati della loro libertà. Ciao, ciao a tutte e ciao a tutti. Ciao e buona estate. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life it's a peel out the watchword, just peel out the watchword.